Letture di Radio 24. Caos trasporti in Lombardia. Solo due mesi fa le immagini delle migliaia di passeggeri abbandonati tra una stazione e l'altra della metropolitana avevano fatto il giro del mondo. Nei giorni scorsi invece c'è stata la debacle dei trasporti su rotaia. Treni soppressi, ritardi che superano l'ora e 700.000 pendolari che ogni giorno si recano in stazione senza sapere se e quando partiranno. Nessuna informazione se non un messaggio registrato che annuncia possibili ritardi. Una frase piuttosto bizzarra, dato che a memoria d'uomo nessun treno delle Tre Nord è mai arrivato in orario. Nata nel 2009 dalla fusione della divisione lombarda di Trenitalia e dalle famigerate Ferrovie Nord, tristemente note ai pendolari lombardi per i continui ritardi e i disservizi di ogni genere, Tre Nord si è distinta negli ultimi anni per un continuo peggioramento del servizio. Ma un disastro come quello registrato nei giorni scorsi non si era mai visto. La causa è il malfunzionamento del nuovo sistema di programmazione dei turni del personale, spiega l'amministratore delegato di Trenord, Giuseppe Biesuz, poco prima di finire agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta di una sua precedente società. Ecco un commento sul caos dei trasporti a firma di Gian Giacomo Schiavi, pubblicato l'11 dicembre sul Corriere della Sera. Alla casistica ormai abituale dei ritardi e delle porte che non si aprono, i pendolari lombardi hanno aggiunto lunedì scorso quella dei macchinisti scomparsi, dichiarati fuori servizio dal nuovo software informatico di Trenord. Il computer di bordo ha giocato a dadi coi turni, disseminando a vanvera gli addetti. 5 su una macchina, nessuno sull'altra, tanto per capirci. E così il combinato disposto che sulla carta doveva migliorare il servizio, nuove corse, nuovi orari, nuovi turni, è diventato un gigantesco boomerang per tutti. Passeggeri inferociti, ferrovieri confusi, azienda sotto accusa. L'inevitabile processo al nuovo software, che ha rivalutato per un giorno la compilazione manuale dei turni, non esaurisce la questione che riguarda l'efficienza dei treni pendolari in Lombardia. Ogni volta c'è un motivo per scontare una pena. Non si può lasciar viaggiare chi deve raggiungere il posto di lavoro o l'università al freddo polare d'inverno e al caldo torrido d'estate. Non si possono stivare come in un carro merci i viaggiatori nelle ore di punta. Non si possono far trovare i sedili perennemente sporchi e insozzati o addirittura, come è stato segnalato recentemente, 15 porte 15 che non si aprono sul treno 2272 che da Parma viaggia verso Milano. Da anni chi frequenta le tratte di piccola e media percorrenza è in guerra con la sufficienza con la quale riceve informazioni e risposte. Abbiamo giustamente applaudito l'arrivo dei treni ad alta velocità che hanno accorciato le distanze tra le grandi città. Ma abbiamo lasciato i treni pendolari agganciati a un'era del passato. Oggi fa clamore il disguido informatico che penalizza la giornata di quasi 700.000 persone. Ma sotto il tappeto del trasporto regionale restano altri cronici e irrisolti disguidi. Per rispetto verso una categoria di viaggiatori stanca di essere considerata di serie B, meritano di essere risolti. Nei giorni successivi la situazione non accenna a migliorare e mentre il Codacons prepara una class action contro Trenord per chiedere il risarcimento dei danni, in un articolo pubblicato giovedì scorso sul Corriere, Claudio Colombo sottolinea che il software che ha causato tutti questi problemi, costato 1,5 milioni di euro, è stato adottato con successo in molti paesi, dalla Francia all'Arabia Saudita, dal Brasile al Marocco. Solo quelli di Trenord sono riusciti a farlo andare in tilt il primo giorno. Non è colpa del software spagnolo, denominato Gol Rail, se i treni lombardi sono piombati nel caos, ma di chi ne ha gestito l'applicazione in Trenord, l'azienda che da 3 anni governa il trasporto ferroviario in Lombardia. L'aggiunta di concause e di sfortunate coincidenze hanno poi aggravato la situazione, fino a portarla al collasso di questi giorni. Linee soppresse, disguidi, ritardi anche doppi rispetto al tempo di percorrenza. Ma andiamo con ordine. Gol Rail, per cominciare. Da Madrid, sede della Gol System, creatrice e proprietaria del programma, fanno sapere che tra i loro 93 clienti internazionali, ferrovie, linee aeree, autobus, metropolitane, non si sono mai registrati problemi complessi o malfunzionamenti. Tradotto in parole povere, significa una cosa, che l'errore nasce a valle, cioè qui, in Lombardia, la regione leader dell'informatica italiana, con la quota mercato del 44% tra le imprese di elaborazione dati e del 40% tra quelle che producono software. Che cosa è accaduto allora? I tecnici informatici di Trenord, nell'elaborare le variabili, avrebbero incrociato non perfettamente i dati, creando una sincronia tra lavoratore e mezzo. Le strade percorribili, quindi, sono due: rimodulazione chirurgica e graduale del software, oppure ritorno al vecchio sistema. Ci si sta pensando seriamente. Ma ai 700.000 pendolari lombardi bisognerà poi dare altri tipi di risposte. Entro quanto tempo i treni partiranno e arriveranno negli orari previsti? Se, come e quando saranno risarciti per l'odissea di queste ore e per la miriade di disservizi quotidiani spalmati su 365 giorni all'anno? Quando potranno salire finalmente su convogli degni di un paese europeo? E questo era un breve estratto dell'editoriale di Claudio Colombo, Trenord e il virus dell'inefficienza, dal Corriere della Sera del 13 dicembre.